Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Vent'anni fa, Nicolae Ceaușescu veniva deposto e processato con le accuse di crimini contro lo Stato, genocidio e distruzione dell'economia nazionale. Il suo palazzo di 330.000 metri quadri, oggi sede del Parlamento, rimane un simbolo della mania di grandezza del feroce dittatore comunista. Tutte le volte che volo sulla Romania, con lo sguardo cerco il palazzo di Ceaușescu. Comincio a cercarlo da molto lontano, anche se so che non lo vedrò. Che prima ci sono le nuvole, che per quanto grande bisogna andarci vicino, prima di riuscire a vederlo. Ma in Romania mi dicono sempre che il palazzo di Ceaușescu, che adesso è diventato il palazzo del Parlamento, si vede anche dalla Luna. Dopo il Pentagono, mi dicono sempre, c'è lui. E lui non si capisce mai se è Ceaușescu oppure il palazzo che si è fatto costruire. L'uomo o il suo prodotto? Il tiranno o il palazzo? Me lo dicono sempre con quel misto di contrizione e ammirazione nascosta, l'orrore di chi ha una storia che gli ha fatto del male, e però anche quell'ammirazione malcelata che deriva dall'avere qualcosa che gli altri non hanno. Tutti gli altri salvo gli americani, che si sono fatti il Pentagono e che poi hanno riempito la Romania di supermercati. Così ogni volta ci provo a individuare da lassù quel palazzo che si dovrebbe vedere anche dalla Luna. Ma Luna e aereo, si vede, fanno strade diverse. In aereo io ogni volta comincio a guardare fuori quando la hostess dice, dentro la cornetta, che abbiamo iniziato la discesa. L'aereo smette di puntare contro il cielo, la spia delle cinture si riaccende. Fino a quel momento leggo, scrivo e se ho paura chiudo gli occhi e penso che dormendo non mi accorgerò di niente. Poi, quando la hostess fa il suo annuncio, inizio a prepararmi e guardo fuori. Chiudo il libro, mi sistemo. Come se il cielo fosse un carnevale e lassù tutto fosse consentito a patto di farsi trovare in ordine al contatto con la terra, come se quello che succede in cielo fosse un segreto. Solo in Romania, appunto, inizio a guardare fuori prima di iniziare la discesa. Cerco il palazzo di Ceaușescu. È una ricerca irrazionale, a 10.000 metri da terra. Eppure lo cerco come se la Romania stesse tutta lì, chiusa dentro un edificio gigantesco. Poi sempre lo vedo sbucare da oltre una nuvola. Una volta un signore italiano, seduto accanto a me, l'ha indicato al figlio dicendo soltanto «Ceaușescu». L'ha detto con una voce grave, piena di allusioni. Il bambino l'ha guardato, poi ha schiacciato il naso contro il finestrino e ha detto «Bello, sembra un castello». Ma c'è un modo che hanno soltanto i bambini di guardare alla storia, che è un istinto a portarla dentro la stanza dei giochi, a disinnescarla, trasformandola in altro. Il palazzo di Ceaușescu che diventa il castello di un mago è l'evidenza di questo, anche se è chiaro che dietro quel pensiero c'era anche la faccia di Dracula. Perché poi, nella testa di un bambino italiano, un vampiro e un sanguinario è solo questione di denti. Possono vivere dentro lo stesso palazzo. Da allora, tutte le volte che vado in Romania, scendendo in aereo sopra Bucarest, penso a quel castello che si vede anche dalla Luna e a quel bambino milanese a cui la storia è arrivata così. Gliel'hanno sciolta dentro un bicchiere. E ogni volta ripenso a tutti quelli che, durante i miei viaggi tra la Transilvania e Bucarest, mi hanno raccontato di com'era vivere da bambini sotto Ceaușescu. Me lo dicevano subito, prima ancora che avessi il tempo di chiedere o la curiosità di pronunciare il suo nome. Perché a voi italiani, mi ha detto un pomeriggio una ragazza davanti al palazzo, della Romania interessano solo due cose, le donne e Ceaușescu. Le donne per divertirvi, Ceaușescu per sentirvi migliori. Mentre mia Ela mi parlava, c'erano turisti che facevano le foto al palazzo. Un signore preso a caso a cui erano state affidate decine di macchine fotografiche e tutti stretti dentro l'obiettivo con gli occhiali da sole. In testa ai capannelli c'erano le guide romene, che in tutte le lingue del mondo puntavano il dito contro il palazzo, ne accentuavano la grandezza con grandi bracciate piene d'aria. Nominavano Ceaușescu, nominavano la Securitate e i turisti facevano le foto. Le guide parlavano di tutte le persone che erano scomparse lavorando alla costruzione di quel palazzo faraonico, ai piani che c'erano sottoterra, adibiti a nascondiglio del tiranno. Una guida diceva 7 piani, un'altra 13, l'altra più di 20, almeno 20, forse anche di più. E a sentire parlare in questo modo mi veniva in mente quel bambino che diceva che il palazzo era un castello e pensavo che la storia la sciolgono dentro un bicchiere pure ai grandi. Noi avviciniamo le labbra al bordo e poi buttiamo giù. Ho ripensato a quel giorno e a quella ragazza romena dopo aver letto Il Re Bianco, un romanzo di grande profondità, durissimo e struggente, di Gheorghi Dragoman, uno scrittore rumeno di etnia ungherese che racconta degli anni del regime di Ceausescu. Lo sguardo è quello di un bambino a cui la Securitate ha sottratto il padre, con una madre che ha quasi smesso di aspettare, mentre il figlio, con l'ottusità invaghita dei bambini, non ne vuole sapere di darsi per sconfitto. È un libro candido e disperato, durissimo con la Romania di Ceausescu, ma dentro ha tutto l'amore di chi, ciò nonostante, appartiene a quella terra, di chi sa usare rispetto, di chi non si permette di liquidare la storia in due parole. Ecco, leggendo quel romanzo e di fronte alla valanga di parole sbrigative, superficiali, che si sentono e si leggono oggi in cronaca sulla Romania, ho ripensato a quel pomeriggio di fronte al palazzo di Ceausescu, in compagnia di quella ragazza che diceva che a noi della Romania interessano solo le donne e Ceausescu. E aveva ragione. Le guide indicavano il palazzo e i turisti facevano le foto. Una turista solitaria aveva in mano una guida e la sfogliava, passando con gli occhi dalla pagina al palazzo, dal palazzo alla pagina. Quando ha finito si è allontanata camminando all'indietro per riuscire a vedere il palazzo tutto intero. Michaela si è staccata da me, si è avvicinata a un gruppo di italiani. Poi è tornata infuriata, mi ha preso per un braccio e mi ha trascinato lì. C'era un ragazzo che diceva «Quanti ne avrà ammazzati?» Un altro che gli stava accanto gli ha risposto «Boh, 5 milioni, forse 6». Avete ascoltato la lettura di un articolo di Andrea Baiani dal settimanale Domenica, allegato al Sole 24 Ore in edicola oggi. Nei giorni scorsi si è verificato l'ennesimo esempio di magistrati che indagano sulle vittime anziché sugli aggressori. È il caso del gioielliere di Cinisello Balsamo che ha estratto una pistola per difendersi dopo essere stato massacrato di botte da un rapinatore albanese e che ora è stato iscritto nel registro degli indagati per eccesso di legittima difesa dal magistrato Stefania Di Tullio. Allora ditelo. Spiegate a tutti che in Italia la legittima difesa non esiste, abolita d'ufficio dai magistrati. Così almeno sappiamo, ci mettiamo il cuore in pace e non ci pensiamo più. Sì, perché se anche Remigio Radolli finisce indagato, significa che in questo paese difendersi dai banditi, se non è ancora vietato, è quantomeno fortemente sconsigliato. Per capirci, Remigio Radolli è quel gioielliere di Cinisello Balsamo, nel Milanese, che il 16 aprile scorso reagì a una selvaggia aggressione a scopo di rapina sparando 3 colpi di pistola che ferirono, non uccisero, ferirono, uno dei malviventi. Forse lo ricorderete. Le foto del volto devastato e sanguinante di questo omone di 59 anni finirono sulle prime pagine di tutti i giornali. O meglio, di tutti meno 3. Il Manifesto e Liberazione decisero di non dare neppure notizia. L'Unità scelse di non pubblicare l'immagine. Troppo pericolosa. Parlava più di 1000 articoli e non era funzionale all'automatica e implicita condanna dei negozianti pistoleri. E poi, i rapinatori fossero almeno stati dei ragazzotti italiani, figli di buona famiglia. Ma che? Erano albanesi. E per di più clandestini. Quindi, un pezzo a pagina 14, con rituale attacco al centrodestra che specula sulle paure della gente. E poi via, verso nuove e più esaltanti avventure. Non è noto se il pubblico ministero che ha iscritto Remigio Radolli nel registro degli indagati per eccesso di legittima difesa, la dottoressa Stefania Di Tullio, sia un lettore di uno di questi 3 giornali. Magari no. Magari li aborrisce. Ma è certo che nella magistratura italiana, così come nella sinistra, il concetto che una persona ha diritto di difendere se stessa, i propri cari e i propri beni, fa una maledetta fatica a trovare cittadinanza. Nel caso in questione, il gioielliere non ha inseguito i rapinatori fuori dal negozio per sparare loro alla schiena. Non ha neppure ingaggiato con loro una sfida, risultando il più veloce, cosa che peraltro davanti a un'arma spianata riteniamo perfettamente lecita. No, prima di fare fuoco, si è fatto massacrare. Il giovane albanese, Blerim Mani, 25 anni, l'ha ripetutamente colpito alla testa, al volto e al torace con la pistola che brandiva. Una violenza inaudita, come hanno scritto i carabinieri nel loro rapporto, che ha lasciato tracce vistose. 18 punti di sutura, un occhio tumefatto, uno zigomo fratturato, un paio di costole incrinate. Solo dopo aver subito tutto questo, il commerciante è riuscito a mettere le mani sulla sua calibro 22, regolarmente denunciata, e a salvarsi la pelle. Se non è legittima difesa questa... E invece no, ha ecceduto, va indagato. Perché? Dice, ma il povero albanese aveva una scacciacani, era dolli colleziona armi, è un esperto, doveva rendersi conto che la pistola del bandito era finta. Certo, semplicissimo. Vi stanno rovinando di botte e voi vi concentrate sulla canna della sputafuoco. Ma guarda te, questa non è una vera Smith & Wesson. No, no, no. La zigrinatura è diversa. Beh, allora tranquilli. E che importa se quell'arma giocattolo, come la definisce bonariamente l'unità, viene adoperata come un martello per spaccarvi in due la testa? E qual è il problema se tra un attimo chi la impugna aprirà la porta del negozio al complice, che è rimasto fuori e che è ansioso di menare un po' le mani anche lui? Surreale? Magari. E comunque nel dubbio si indaga. Caro lei, sembra legittima difesa, ma potrebbe essere eccesso. Vai con l'avviso, vai col marchio. Un atto dovuto, si affrettano a spiegare. Come no? È per tutelare il gioielliere, aggiungono. E c'è bisogno di dirlo? Del resto, anche voi non vi sentireste meglio garantiti una volta che il vostro nome figurasse nel mitico registro degli indagati? Beh, sì, c'è la seccatura della vostra reputazione, però in cambio siete salvaguardati. Ah già, e poi quella cosuccia che dovreste prendervi un avvocato e pagarlo, visto che siete persone per bene. Fa niente, no? E vi disturba se nel frattempo vi impediamo di lavorare? No, perché naturalmente la gioielleria resta sotto sequestro. Siete un indagato, per pacco, mica un cittadino qualsiasi. Incredibile? Purtroppo no. Le cose stanno esattamente così. E questo nonostante la legge in vigore, opportunamente modificata dal Parlamento nel febbraio 2006, durante il precedente governo Berlusconi, stabilisca che non è punibile chi usa un'arma legittimamente detenuta al fine di difendere la propria o l'altrui incolumità e i beni propri o altrui, quando vi è pericolo di aggressione. A Cinisello Balsamo non c'è stato pericolo di aggressione. C'è stata un'aggressione talmente brutale che il responsabile è accusato di tentato omicidio. E Radolli è molto semplicemente quello che stava per essere ammazzato, la parte lesa, come suggeriscono i giuristi, e solo a questo titolo dovrebbe entrare nel processo. Invece è indagato. E nei tribunali ti raccontano la favola bella che non si poteva fare altrimenti, che la legge non consente altro mezzo per compiere determinati accertamenti, che loro non ne hanno colpa e che casomai si dovrebbe cambiare il codice. Finché non trovi un magistrato che esce dal coro e, come fa Maurizio Laudi, spiega che non è affatto vero, che non c'è proprio nulla da cambiare, se non la testa di qualche collega. Grazie, procuratore. Che il re fosse nudo, la gente che usa un po' di buonsenso l'aveva sospettato, per così dire. Ora sa che non era un'allucinazione. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Massimo De Manzoni, ha sparato per non essere ucciso, ma secondo i PM si è difeso troppo. Dal Giornale del 29 aprile.